4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta, buona serata amici dei motori, puntata ricchissima. Inizio subito ricordandovi www.radio24.it. Da lunedì troverete tutto l'audio che ascolterete adesso, come avviene ogni sabato per circa mezz'ora. Una semplice mail invece vi proietta all'interno della nostra redazione motori, 4 scritto in numeri, ruote, @radio24.it. Partiremo con un'inchiesta in anteprima di 4 ruote su dossi e rotonde, poi camion e sicurezza con una bella iniziativa di Volvo e la seconda parte interamente dedicata all'importantissima spedizione Oltre. Vi lascio un po' di suspense perché parleremo di 6 mezzi gommati che andranno fino a Bering attraverso 14.000 km sul ghiaccio. Incredibile avventura. Subito da 4 ruote, buonasera a Emilio De Leidi. Buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori. Alcuni lettori, in questo caso navigatori del vostro sito 4ruote.it, vi hanno segnalato delle idee riguardanti dossi e rotonde. Due belle idee spesso realizzate male. Che inchiesta avete fatto? Sì, perché Roberto, vale la pena ricordare come certe soluzioni che possono essere molto valide, per esempio per ridurre i semafori e fluidificare il traffico, come accade con rotonde rotatorie, in realtà poi vengono vanificate da una cattiva realizzazione da parte degli enti proprietari della strada. Faccio un esempio: nelle rotatorie il codice della strada, lo ricordiamo proprio in questa inchiesta, si circola sempre su una sola corsia, non è ammessa cioè la circolazione affiancata su file parallele, questo per evidenti motivi di sicurezza, sì, e di incrocio dei flussi dei veicoli, mentre noi troviamo, capita spesso, delle rotatorie con una striscia tratteggiata di mezzeria disegnata sul fondo dell'asfalto, quindi chi ha progettato quelle rotatorie evidentemente non conosceva il codice della strada. Molto bene, questo è per dire anche e fare un aggancio con la normativa utile. Ora possiamo dare anche qualche consiglio, Emilio, credo, per affrontare in maniera corretta guidando questi dossi oppure queste rotatorie. Guarda, per le rotatorie la prima cosa da ricordare è appunto che non ci si affianca, non si viaggia con altri veicoli affiancati all'interno della rotatoria. E poi la cosa principale è, purtroppo, è nella giungla che ci troviamo che troviamo sulle nostre strade, è che non tutte le rotatorie sono regolate con lo stesso principio, cioè con la precedenza che gira, no? Col dare precedenza sulle strade che affluiscono alla rotatoria. Questo vuol dire che comunque la regola della precedenza destra e l'importanza di osservare la segnaletica vale sempre, perché non tutte sono uguali. Ricordiamo poi che chi esce dalla rotatoria deve azionare l'indicatore di direzione, mettere la freccia come quando gira a destra. Per quanto riguarda i dossi, purtroppo noi assistiamo a un proliferare che molti lettori ci segnalano e molti navigatori ci segnalano di dossi che in realtà sono dei passaggi pedonali rialzati, perché i dossi, quelli per intenderci gialli e neri di plastica, devono essere applicati solo su certe strade e non possono mai eccedere, se il limite di velocità è di 30 km all'ora, ai 7 cm di altezza. Tutti vedono che in realtà noi troviamo dei rialzi molto più elevati e pericolosi. Purtroppo gli enti locali utilizzano l'escamotage del passaggio pedonale rialzato per fare questi rallentatori. Anche qui però il codice della strada mette dei paletti ben precisi e chi non rispetta queste norme crea delle situazioni anche di pericolo. Pensate per esempio ai motociclisti, a quando questi attraversamenti sono fatti di porfido, quando per caso piove, e quali situazioni per chi si trova ad affrontarli sulle due ruote. Incredibile, poi spesso gente che rischia quasi di fare una staccata come fosse in pista con l'arrivo di questi dossi, frenando eccessivamente con rischio di tamponamenti. Grazie per questi consigli, seguirete l'inchiesta di 4 ruote nel numero di dicembre fra una settimana in edicola. Emilio De Leidi, grazie e buona serata. A te e un saluto a tutti gli ascoltatori. A proposito di sicurezza, vi dicevo prima camion e sicurezza, una bella iniziativa di Volvo ha deciso fa sì che i suoi mezzi pesanti siano dotati di serie di alcuni dispositivi molto importanti per la sicurezza non solo dei camionisti ma anche di chi circola intorno ai camionisti. Lo chiediamo nel dettaglio salutandolo l'amministratore delegato di Volvo Italia, Marco Lazzoni. Caro Lazzoni, buonasera e benvenuto. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Marco, abbiamo 3 minuti per parlare con i nostri ascoltatori. 28.000 sono gli incidenti stradali ogni anno che coinvolgono autocarri e autotreni. Significa quasi il 7% di tutti gli incidenti stradali. Per la sicurezza dei camionisti e per la sicurezza degli automobilisti avete deciso di prendere avete preso una decisione importante, che è quella di montare di serie alcuni dispositivi. Ci racconta questa decisione? Ma sì, certo, cioè, oggi diciamo la tecnologia elettronica ci mette a disposizione degli strumenti molto interessanti, molto potenti per migliorare i mezzi e dotarli di quella che si chiama sicurezza attiva. Sì. Ecco, sono dispositivi che però fino ad oggi sono stati considerati un po' dei piccoli lussi, quindi tenuti nella lista degli optional. E noi invece siamo convinti che sia arrivato il momento di inserirli nelle serie, e questo significa naturalmente anche ridurne molto significativamente il costo per il cliente, e quindi farli conoscere e renderli veramente accessibili un po' alla grande massa. Allora, ve ne cito 4, breve spiegazione su ognuna. Controllo della corsia di marcia, assistenza al cambio di corsia, controllo elettronico della frenata, avviso al conducente stanco. Iniziamo dal controllo della corsia di marcia, 20 secondi su ognuna, Lazzoni. Ma direi che la filosofia di base è che mettiamo a disposizione dell'autista un occhio supplementare a bordo del veicolo, quindi un po' tutto si basa sulla presenza di una telecamera che analizza quello che succede intorno al camion, quello che succede davanti, e segnala sostanzialmente al conduttore se inavvertitamente sta perdendo la direzione, cioè se sta sbandando, se sta occupando la corsia, e lo avverte con un allarme sonoro e quindi lo invita a riprendere il controllo del mezzo. Molto interessante è l'assistenza al cambio di corsia, perché diciamo, anche per chi non è molto pratico di veicoli industriali, si intuisce bene che dall'alto della cabina, sul lato destro in basso, il lato passeggero, è possibile che passi una macchina, un mezzo, e che l'autista in qualche maniera non se ne accorga. È il famoso angolo cieco, è chiaro. Il famoso angolo cieco che è veramente un po' un'insidia sempre in agguato. Allora lì, ecco, abbiamo piazzato un radar che aiuta l'autista, che per qualche motivo naturalmente non se ne fosse reso conto, che effettivamente lì sotto c'è qualche cosa. Bellissimo. Quindi, quando poi il controllo elettronico della frenata interviene, più facile da intuire, perché evita sbandate, capottamenti, e un sistema di controllo dei freni integrato nell'elettronica del veicolo. In chiusura, l'avviso al conducente stanco va a esaminare proprio il comportamento di guida e la posizione del veicolo rispetto alla corsia e al bordo della strada. Volevamo segnalare questa decisione importante. Dal 1 gennaio 2009 i più avanzati sistemi di sicurezza attiva saranno montati di serie su tutti i camion della gamma FH Volvo Trucks. Lazzoni, complimenti alla sua azienda, grazie e buona serata. Grazie infinito e buonasera. Quattro ruote e dintorni. Bene, come vi ho promesso in apertura, adesso dobbiamo occuparci di un progetto molto importante per tante persone, per alcune comunità scientifiche, ma anche per noi del gruppo Sole 24 Ore, che con le sue capacità multimediali seguirà il progetto denominato Oltre, di cui iniziamo anche nella nostra trasmissione di motori oggi a parlare. Ci saranno altre puntate, ci saranno altre spiegazioni. Che cos'è il progetto Oltre? È una grande avventura che si può definire italiana, ideata da un esploratore norvegese, che vuole essere, pensate, il primo a raggiungere in auto l'estremo più remoto di quella grande regione che si chiama Eurasia. Entro il mese di marzo, l'anno prossimo, quindi 2009, partendo ai primi di dicembre, con 4 fuoristrada derivati dalla serie, strettamente derivati da essa, e 2 veicoli commerciali targati tutti e 6 Iveco, la spedizione Oltre punta ad essere la prima spedizione a raggiungere lo stretto di Bering, partendo da Milano, lungo la via, e questa è un po' la particolarità, del mito passaggio a nord-est. Sono 14.000 chilometri da qui, dall'Italia, tra costa siberiana, mare ghiacciato, e si raggiunge quel luogo, un po' magico se me lo consentite, in cui con un solo sguardo si può vedere da una parte la Russia e dall'altra gli Stati Uniti. È un'avventura polare invernale, estrema, perché sfrutta il freddo con la calotta di ghiaccio su cui si andrà con mezzi gommati, non chiodati, cinture o cani e slitte, ma con mezzi gommati e sfruttando la temperatura di 50 gradi sotto zero. Da una parte questo garantisce che il suolo sia assolutamente definibile tale, in realtà è ghiaccio, dall'altra però questo crea problemi perché 100 giorni e 100 notti a meno 50 potete solo immaginare voi che cosa significhi. Siamo andati a conoscere questa avventura da vicino partendo dagli allestitori di questi mezzi, quindi dall'Iveco, che metterà a disposizione 6 mezzi. Allora ci siamo fatti spiegare dall'ingegner Giorgio De Michelis, responsabile testing in ambito piattaforme veicoli leggeri di Iveco, in questo caso il responsabile dell'allestimento di tutti i veicoli per la spedizione Oltre, e con lui dall'ingegner Romanini, project leader dei veicoli Oltre, che cosa innanzitutto Iveco ha fatto per questa spedizione Oltre. Iveco ha ricevuto la commissione da parte della ditta ICE, in particolare da Peter Johannessen, di realizzare su loro specifica dei veicoli che fossero in grado di soddisfare i climi molto bassi che la spedizione Oltre andrà a incontrare, praticamente con temperature che possono raggiungere i meno 40, meno 50 gradi centigradi in condizioni di clima locale. Per fare questo, ovviamente, Iveco si è attrezzata per cercare di rispondere al meglio a questo tipo di esigenza. Per il know-how specifico necessario per la realizzazione dei mezzi ci siamo avvalsi della collaborazione della Uralaz, di Mias, alla base degli Urae, una joint venture che l'Iveco ha dai primi anni 90 e che sono specializzati in questi allestimenti di articizzazione. Sulla base delle loro specifiche noi ci siamo operati per realizzare i veicoli. Articizzazione significa rendere adatto per l'Artico evidentemente un mezzo. Ingegner Romanini, le chiedo innanzitutto i mezzi da dove partiranno esattamente, visto che il viaggio è suddiviso in due grandi tappe, una di 4.000 km e la seconda di 10.000, e si parla dell'andata. Esattamente, diciamo che i veicoli partiranno da Milano a fine novembre per arrivare a Capo Nord, da dove poi partiranno per la spedizione, l'avventura vera e propria, per arrivare a Welen, vicino allo stretto di Bering, percorrendo circa 10.000 km di estremo fuoristrada in condizioni ambientali quasi proibitive, ecco, come diceva l'ingegnere De Michelis prima, per arrivare fino a meno 50 gradi centigradi. I mezzi in tutto esattamente saranno 6, ce li descrive l'ingegner De Michelis. La spedizione sarà dotata di 4 veicoli massif e da 2 veicoli daily 4x4. Avranno questi veicoli al seguito un rimorchio che verrà trainato da questi veicoli con dotazioni che servono all'impresa stessa. E diciamo che abbiamo stimato i consumi per quanto riguarda il funzionamento dei veicoli durante la notte in cui gli equipaggi saranno fermi per dormire, che è di circa un chilogrammo all'ora. Questo è importante, va sottolineato, i veicoli saranno sempre in moto, sempre in funzionamento per consentire il riscaldamento dei veicoli stessi e anche il riscaldamento delle cellule di sopravvivenza montate sui veicoli e delle tende in cui le persone dell'equipaggio dormiranno. Per quanto riguarda quindi il motore, siamo su un allestimento tipico di questi mezzi. Quello che cambia è tutto ciò che c'è intorno. Iniziamo da dentro e poi usciamo fuori. Che cosa cambia a bordo di questi mezzi? Beh, innanzitutto cominciamo a parlare dell'interno, perché all'interno deve essere garantita la temperatura ambientale che consenta la sopravvivenza agli occupanti. Sono stati previsti due sistemi di riscaldamento all'interno del veicolo, un primo con un riscaldatore aria-aria e un secondo che fa invece riferimento a un sistema di riscaldamento dell'acqua di raffreddamento motore, per consentire al sistema di climatizzazione del veicolo di poter comunque garantire la temperatura. Riteniamo che con questi due sistemi si possa essere tranquilli che sicuramente la temperatura all'interno delle cellule abitacolo consenta la sopravvivenza del personale. e non è da dare per scontato, perché in temperature esterne da 50 gradi succede che in pochi minuti, se si dovesse fermare il veicolo, sarebbe sufficiente aprire una portiera che anche la temperatura interna ne verrebbe ridotta drasticamente. Romanini, abbiamo detto dell'interno, gli spazi come vengono svuotati o occupati? Hanno dei materiali a bordo queste jeep, questi mezzi, che cosa trasportano fin là? Allora, diciamo che dobbiamo distinguere le due tipologie di veicolo. Per quanto riguarda i Massif, ci saranno a bordo gli equipaggiamenti del personale, quindi vestiario o piccole attrezzature per filmati o per registrazioni, mentre per quanto riguarda i 4x4, i daily 4x4, questi veicoli saranno allestiti con un'apposita cellula che sarà, diciamo così, di due tipi: una destinata a una cellula di sopravvivenza, quindi avrà al suo interno una piccola cucina e un dormitorio, una zona dove gli equipaggi, diciamo così, si possono ritrovare, mentre il secondo daily sarà allestito con una piccola officina ricambi dove ci saranno delle dotazioni per delle operazioni di primo intervento, quindi delle attrezzature e i ricambi che possono essere utilizzati e sostituiti in queste condizioni particolari. De Michelis, lei prima ha sottolineato la necessità per voi di pensare a ogni dettaglio. Per esempio mi viene in mente la serratura, un qualcosa che si dà per scontato, però a meno 50 gradi non è sufficiente avere una serratura e una chiave. No, lo sforzo che si è cercato di fare è proprio stato quello di cercare di prevedere tutto, perché in quelle condizioni una bufera di neve o quant'altro possono sicuramente bloccare anche le aperture. E allora abbiamo anche predisposto delle aperture a strappo per le serrature, in modo tale che anche nel caso in cui si geli la maniglia sia comunque possibile accedere ad uscire dal mezzo. E se vogliamo uscire allora da questo abitacolo, su cui ci sono decine di particolari che andremo a descrivere nelle prossime puntate, troviamo una vettura già dall'esterno in condizioni diciamo adatte all'Artico. Che cosa significa soprattutto sull'anteriore? Sull'anteriore intanto abbiamo predisposto, diciamo, come si può travedere anche da eventuali immagini, la presenza di un varicello. La varicello è importante per potersi magari disimpegnare in determinate situazioni. Sarà montato a Oslo un antighiaccio in modo tale che l'eventuale caduta accidentale in una buca o cosa di questo genere non pregiudichi il veicolo. Se poi andiamo avanti e guardiamo assolutamente l'intero veicolo, possiamo renderci conto che esiste una fanaleria aggiuntiva che a quelle latitudini, soprattutto dovendo procedere nell'oscurità, consenta a chi guida di poter bene individuare il percorso. Abbiamo inoltre previsto tutta una serie di interventi dal punto di vista anche della meccanica che salvaguardi quello che possono essere determinate condizioni di funzionamento. Pensiamo ai liquidi, per esempio, a quelle temperature gela tutto. Voi come farete? Assolutamente sì, abbiamo predisposto e studiato con chi si occupa di fluidi e lubrificanti in Iveco tutta una certa serie di materiali che consentano il funzionamento a quelle temperature, dagli oli ai fluidi lubrificanti e altre sostanze che possono garantire il funzionamento del motore a bassissima temperatura. Ultima domanda anche per lei: noi siamo abituati a salire sulla nostra auto e fermarci ogni 300-400 km per rifornirla di carburante. Che cosa succede in terre in cui il carburante non c'è? Figuriamoci i benzinai. Come dicevo, i veicoli sono i veicoli standard e quindi da questo punto di vista hanno il normale serbatoio che è previsto per un utilizzo normale. In particolare sono stati previsti diciamo dei serbatoi supplementari che consentano naturalmente di aumentare l'autonomia del veicolo. Inoltre sul rimorchio che verrà trainato da ciascun veicolo è prevista comunque una ulteriore riserva di carburante, circa 200 litri, che consenta naturalmente di aumentare comunque sia l'autonomia del veicolo sia fornire anche combustibile per i riscaldatori previsti nell'interno dell'abitacolo. Erano le voci di Giorgio De Michelis e di Riccardo Romanini, i due responsabili del progetto Oltre in Casa Iveco, che è la casa costruttrice italiana che ha messo a disposizione questi sei mezzi per il progetto Oltre. Ci saranno altre trasmissioni di Radio 24, ci sarà il quotidiano Sole 24 Ore, altri mezzi che parleranno di questa spedizione. Ci stiamo avvicinando al momento importante: a fine novembre, fra fine novembre e inizio dicembre, partirà da Milano la spedizione e giungerà a marzo a compiere questo grande tragitto nel passaggio a nord-est. Molto bene, noi ci risentiamo sabato prossimo alle ore 21, vi rimando su radio24.it, su cui c'è uno speciale dedicato interamente alla spedizione Oltre. Giacomo in regia, Roberto Rasia al microfono vi ha parlato, vi augura soprattutto una buona domenica, ma più di altro un'ottima guida. Ciao!